sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho annunciato lungamente questa trasmissione perché la vedevo nascere in alcuni interventi, in alcune partecipazioni accorate, in alcuni punti di vista che trapelavano qua e là nel corso delle ultime settimane. Ci venne in mente poco tempo fa, quando noi celebrammo degnamente la partecipazione al Festival di Sanremo del Rampollo Savoia. Facemmo un'analisi storico-strutturale del testo della sua canzone All'Italia e ci vedemmo, sicuramente inconsapevoli, i germi di letteratura, di fermento, di punti di vista, senso profondo di spirito savoiardo. Naturalmente la presenza ormai incessante, continua, costante di Emanuele Filiberto di Savoia nei palinsesti della TV pubblica come elemento rivitalizzatore merita un riequilibrio. Quindi questa mattina noi parleremo dell'Italia neoborbonica. Faccio una brevissima necessaria premessa, anche se in fondo fino a un certo punto necessaria. So perfettamente che siamo in un periodo di attenzione, di fase preelettorale, particolarmente anche resa acuta nelle sue tensioni da note vicende che leggiamo ogni giorno sui giornali riguardo alle attenzioni da tenere. E vi assicuriamo che questa mattina nessuna delle persone a cui parteciperà è impegnata in nessuna campagna elettorale. Noi parliamo semplicemente di un movimento di tipo culturale, di tipo idealista, di appassionato, nostalgico desiderio di rivivere, ripensare, ricollocare, rimmaginare la storia secondo degli schemi che non sono stati quelli che noi conosciamo. Questa mattina abbiamo in studio, come avevamo già annunciato nella puntata savoiarda, Marco Pizzo. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Tu, Marco, terrai un po' la parte del risorgimentale necessariamente, perché mi serve qualcuno che abbia documentazione. In questi ultimi anni, proprio come osservatorio del Museo del Risorgimento, hai mai avuto a che fare con moti neoborbonici o con persone che considerano tutti i cimeli della storia patria conservati nel tuo museo come qualcosa che in realtà ricorda una fase funesta della nostra storia patria? Beh, direi proprio di sì, cioè c'è un vasto movimento d'opinione che considera il Risorgimento quasi come una guerra di conquista. Quindi il Sud è stato annesso al Nord sabaudo come un'attività di tipo di oppressione proprio, è stato incamerato nei beni Savoia. Questo è un tentativo di riscrittura della storia, però come spesso mi trovo a ripetere, questa riscrittura della storia deve basarsi poi su dei fatti, su delle necessità di tipo storico e storicistico. È facile liquidare l'annessione del Regno delle Due Sicilie dopo l'impresa dei Mille come un'annessione antidemocratica, ma di fatto si è realizzata l'Unità d'Italia e né era possibile pensare che fosse possibile realizzare un'Unità d'Italia in maniera diversa. Abbiamo naturalmente anche una controparte che rappresenta invece il movimento neoborbonico. Abbiamo al telefono Gennaro De Crescenzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Presidente del movimento neoborbonico, autore di Contro Garibaldi, appunti per demolire un mito di un nemico del Sud, edizioni Il Giglio. Mi conferma lei che il Sud non è un movimento politico, così posso serenamente farvi parlare anche in tempo di par condicio? Assolutamente sì, noi non abbiamo mai fatto politica, né la faremo mai, insomma, probabilmente la faremo intorno al 2020, quando i nostri giovani saranno cresciuti, insomma. Quindi stiamo già preparando la campagna elettorale del 2020, sia tranquillo. Insomma, ci sono per il 2020 voi preparate una sorta di partito neoborbonico? Ma sì, ma potrebbe anche darsi, quando i nostri giovani cresceranno fieri, forti, radicati, arrabbiati, probabilmente ci sarà questa necessità, ma insomma è di là da venire, il nostro è un movimento di formazione culturale, di ricostruzione storica sulla base proprio dei fatti a cui faceva riferimento prima il professor. Ecco, ma voi come siete organizzati? Avete anche dei vostri momenti liturgici, diciamo, di incontro dei luoghi che reputate luoghi storici. Io ho citato l'altra puntata e non li ho rintracciati oggi, le persone che fanno una volta l'anno un raduno a Civitella del Tronto, l'ultima fortezza borbonica. Voi avete qualcosa di simile, di punti di ritrovo o luoghi toccati comunque dalla storia che voi considerate sacri nel vostro punto di vista? Ci sono sicuramente dei luoghi sacri, e questi sono in testa: Gaeta, Civitella e Messina, soprattutto Gaeta, perché sono le tre ultime fortezze che sono state abbattute dal fuoco dei cannoni piemontesi, quindi hanno un grande valore simbolico. Ma esistono anche altri punti di riferimento per noi simbolici, per esempio Melfi, che è in qualche modo la capitale del cosiddetto brigantaggio, perché sono tutti posti che ricordano storie che nessuno ci ha raccontato mai, storie che appartengono a tutti i meridionali, a tutti gli italiani. Insomma, oggi che ci avviamo a diventare, lo siamo diventati, volenti o nolenti, cittadini europei, inevitabilmente dobbiamo portare con noi un bagaglio di ricordi, una memoria storica che passa per Gaeta, per Civitella, per Messina, per Melfi, per i mille luoghi dimenticati di questa storia, che è una storia comunque italiana, che ci appartiene a tutti quanti noi. E quello che ci auguriamo possa succedere con queste celebrazioni di 150 anni di Comunità d'Italia: poche parole, sempre riferendomi al professor Pizzo, ma più fatti, più cose, più documenti soprattutto, perché il nostro lavoro, almeno anche il mio personale, parte da una specializzazione in archivistica, tutt'altro che da idee o da discorsi di carattere. Quindi questa mattina noi diamo visibilità a un aspetto poco conosciuto e anche poco raccontato di questa, tra le tante nostalgie che passano per il nostro paese, fra i tanti desideri di tempi che non sono più come uno vorrebbe, esiste anche quello dei nostalgici dell'era borbonica. Sembra un periodo tanto lontano nel tempo, però il fatto che siano delle persone che lavorano sui documenti e cercano comunque delle tracce di una loro possibile e immaginabile, probabilmente, riscossa, questo ci fa pensare che è il caso di parlarne. 800 24 00 24, tutti coloro che sentono in qualche maniera coinvolti emotivamente in questa disputa culturale tra l'Italia risorgimentale e l'Italia neoborbonica, ci chiamino questa mattina. Su internet erano usciti dei messaggi di un gruppo di neoborbonici che sono contro i Savoia, che pare si fossero messi là per fischiare Filiberto a prescindere. La nostra è un movimento di opinione immenso. C'è l'associazione neoborbonica, è come il parroco di una parrocchia. Il parroco ha la sua parrocchia con tutti i suoi fedeli. Ecco, noi abbiamo una miriade di personaggi che girano intorno a noi. Gli Savoia è andato a raccontare lì l'amore per l'Italia, è andato a raccontare l'amore per la storia italiana. Insomma, lui dovrebbe raccontarla la storia, visto che sulle sue spalle pesa in qualche modo il saccheggio del sud, pesa in qualche modo il massacro che è stato compiuto ai danni dei meridionali. Cittadini. Marco Pizzo, siamo partiti con Giletti che accusava di fischi a Emanuele Filiberto i gruppi neoborbonici, e con questa canzone, la cui melodia mi sembra di riconoscere. Cosa si tratta? Allora, si tratta di degli stornelli politici che vennero fatti nel Regno delle Due Sicilie, ormai annesso, quindi dopo il 1860, a vantaggio dei candidati che si presentavano alle elezioni. In che anno era? Siamo intorno al 1870-75. La cosa interessante, secondo me, è questa, che nel momento in cui si parla del Regno delle Due Sicilie bisogna fare riferimento comunque a una cosa che ha molti chiaroscuri. Non è che tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra parte. Si parla comunque di due strutture statali che vennero in qualche maniera a cozzare all'interno di un disegno nazionale. Il Regno delle Due Sicilie e il Regno Sabaudo erano strutturati come due stati diversissimi, perché da una parte c'era un ceto quasi neo-imprenditoriale, dall'altra una vastissima cultura di tipo latifondista. Questo confermerebbe poi il fatto che in realtà l'Unione d'Italia sia stato qualcosa di artificiale. Erano due, al di là della contiguità geografica, che in fondo è uno stivale che senza parte bassa è senza soltanto un gambaletto, in effetti erano due mondi totalmente differenti e incomunicanti tra loro. Erano dei mondi statali differenti. Però non erano due nazioni, era un'unica nazione, ovvero sia la cultura dell'Italia meridionale e la cultura dell'Italia centrale e settentrionale erano la medesima. Questa, che non era una semplice unità geografica, ma una unità culturale, doveva in qualche maniera essere unificata anche a livello statale. A riprova di tutto questo, si pensi una cosa che venne notata da Crispi e successivamente da Giulitti, che l'unità d'Italia si era fatta e quello che era lo Stato, cioè la burocrazia ottocentesca del primo Stato, venne per l'80% proprio dal Meridione. Cioè i posti dei ministeri vennero in qualche maniera assorbiti quasi completamente dalla popolazione meridionale. È quello che ancora oggi dice chi considera una sorta di meridionalizzazione della burocrazia italiana, che in realtà dice negli uffici sono tutti meridionali, esattamente un cavallo di battaglia, diciamo, di chi rivendica il separatismo invece delle aree burocratiche del nord Italia. Ma anche questa è una precisa motivazione storica. Perché nel momento in cui il Meridione viveva sotto una struttura di tipo assistenziale sotto i Borbone, perché comunque non c'era imprenditoria, non c'era industria, le attività erano il cosiddetto indotto statale, che nel momento in cui si creò l'Unità d'Italia si tramutò in burocrazia. E queste sono delle analisi ben precise, ma che portò anche di fatto all'Unità d'Italia, perché comunque i ministeri vennero a Roma e da Roma in giro per l'Italia, e quindi si creò di per sé questa amalgama nazionale ancor prima della Prima Guerra Mondiale. Pino Aprile, buongiorno. Salve, salve a tutti. Dunque, Pino Aprile è un giornalista, è stato direttore di Gente, vice direttore di Oggi, ha collaborato a molte trasmissioni televisive, è appassionato di vela, è appena uscito un suo libro intitolato Terroni, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, edizioni PM. Pino Aprile, te, diciamo, oltre a fare un'analisi che potrebbe in qualche maniera combaciare con quello che ci potrebbero dire i signori del movimento neoborbonico, però tieni una coda lunga, prosegui questa lettura sin dopo la guerra, seconda guerra mondiale, sino al dopoguerra, sino agli anni del boom, sino oggi. Trovi qualcosa di sensato nelle tue analisi rispetto a quello che stiamo dicendo nella divisione dell'Italia fra un sud borbonico che però aveva questa sorta di vocazione per la burocrazia e un nord che era completamente diverso e che in realtà però hanno creato una nazione unica con due anime che continuano a rimanere ancora. Oddio, è difficile assumere, ma direi per punti, proprio per titoli. Intanto cioè, l'unità d'Italia era una cosa ineluttabile, si doveva fare, che si potesse fare meglio cose in altri modi, ne possiamo parlare per altri 150 anni, comunque sono chiacchiere. A me suona, fischia nelle orecchie una frase di Napoleone Colaianni che diceva chissà perché ogni volta che si vuole migliorare il mondo se ne deve eliminare almeno la metà dell'umanità, e è quello che è stato fatto al sud. La famosa burocrazia borbonica di cui ci lamentiamo oggi in Italia non è borbonica, è savoiarda. Cioè lo schema burocratico italiano oggi è disegnato su quello sabaudo, che non è altro che un riadattamento di quello napoleonico. Quello borbonico fu studiato dal cavalier Sacchi, che era dirigente dei ministeri, diciamo direttore generale, non mi ricordo esattamente il termine, diciamo il numero uno della burocrazia sabauda, mandato dal Cavour a mettere a posto, a sistemare letteralmente la burocrazia nel regno conquistato, perché conquistato fu, delle due Sicilie. Il cavalier Sacchi mandò a Cavour una relazione che, adesso cito a memoria ma più o meno fra virgolette, era un atto d'amore sconfinato per la perfezione, la puntualità eccetera eccetera dello schema burocratico borbonico, e ne proponeva l'adozione per l'intera Italia. Fu richiamato a Torino e messo da parte. Su quello che era il regno borbonico, per esempio, non aveva vocazione industriale, ma non è vero. Le più grandi acciaierie d'Italia, le più moderne, che da sole avevano quanto tutti gli stabilimenti siderurgici del nord messi assieme, erano in Calabria. Le più grandi officine meccaniche d'Italia, fra le più belle e migliori d'Europa, tant'è che vennero copiate mattone per mattone, per esempio dalla Russia, le officine di Kronstadt, mitiche e celebrate, sono la copia, proprio con i mattoni numerati, delle officine di Pietrarsa e di Napoli. Sì, ma questo potrebbe pensare che in realtà il Risorgimento abbia gettato il sud in uno stato di arretratezza rispetto alle sue punte di eccellenza che esistevano al tempo dei Borboni? Sì, non deve farlo pensare, è vero. Cioè il sud è stato depredato letteralmente. Ora il Piemonte, anche per la sua vocazione unitaristica, si era riempito di debiti, tant'è che stava per vendere, almeno si progettava di vendere la Sardegna per riuscire a tappare qualche buco. Il Regno delle Due Sicilie aveva delle finanze così in ordine che i titoli del Regno delle Due Sicilie venivano immediatamente comprati al 20% in più del loro valore nominale alla Borsa di Parigi, mentre quelli del Regno Sabaudo venivano, no, si piazzavano con difficoltà al 30% in meno. Unificata la cassa, il Regno delle Due Sicilie, il Sud, diciamo l'Italia del Sud, perché chiamiamolo, cioè, c'è l'Italia, poi era diviso in diversi stati, ma era Italia. Si sentivano italiani anche se non parlavano poi l'italiano, sono 200.000 persone, a parte i toscani parlavano italiano. Allora, fermiamoci un attimo, scusami Pino, un secondo solo, voglio sentire due ascoltatori per dare spazio al pubblico. Siamo Luca, Luca buongiorno. Sono io, hai chiamato? Sì. Allora, una storiellina brevissima. Il mio trisnonno, un casentino, aveva diritto di voto al plebiscito per l'unità d'Italia, votò contro l'unità d'Italia. Era nel Granducato di Toscana, suo nonno. Granducato di Toscana, sì. Esatto. Quando venne il risultato del plebiscito, venne fuori che tutti avevano votato a favore dell'unità d'Italia. Quindi il Regno d'Italia nacque su una serie, questo è uno che conosco direttamente, posso immaginare su molti altri brogli. Qui tutte le volte che si parla di vicende legate comunque a una casa regnante in Italia si parla di brogli, se ne parla nell'occasione che li riporta suo nonno, se ne parla in occasione del referendum fra monarchia e repubblica, se ne è parlato in occasione della vittoria del Festival di Sanremo. Emanuela. Buongiorno Gianluca. Suo compagno è neoborbonico. Il mio compagno è neoborbonico. Quindi vuole raccontarci della vita personale di una signora di un neoborbonico? Qualcosa del genere, nel senso che il mio compagno è calabrese, mentre io sono piemontese, noi viviamo a Torino. Quindi una sorta di unità d'Italia avete realizzato. Esattamente, ma... ci parli allora del vostro risorgimento? Sì. Felice. Diciamo che lui è un calabrese di nascita, perché poi è venuto in Piemonte, a Torino, quando aveva 5 anni, dopodiché non è mai più tornato in Calabria, non ne conosce la realtà, i suoi genitori in pratica non ne sono mai più tornati e quindi lui è piemontese a tutti gli effetti, diciamo. Ha incontrato su internet il libro interamente scaricabile Il Sud e l'Unità d'Italia di Giuseppe Ressa, sul sito ilportaledelsud.org, lo ha studiato a fondo e si è convinto e ripete con frequenza quasi quotidiana le tesi che il suo ospite ha appena illustrato, e cioè che il Sud era estremamente più evoluto rispetto al Nord sabaudo e che tutti i mali del Meridione sono nati dalla conquista piemontese. Ora, io... non posso assolutamente controbattere, non ho voglia di studiarmi o di entrare in una diatriba storiografica, ma mi limito a fare questa considerazione. Se le cose stanno effettivamente così, come mai i miei antenati, posso risalire fino al 1700-1600, qui in Piemonte, erano già proprietari della terra che coltivavano, mentre i suoi erano in pratica servi della gleba? Questo, sentiamo, sentiamo, me, se ho capito il fa tema... Fa cadere tutta la tesi. Sì, vabbè, se io guardo la storia della mia famiglia, la famiglia di mia moglie, può essere che chissà quali sorprese potrei avere, guardando all'indietro, bene, sì, bene, però sa, il tempo passa, le vicende cambiano, noi siamo quello che rappresentiamo nell'epoca in cui ci produciamo sensibilmente e coscientemente. Comunque, sentiamo Marco Pizzo su quest'ultima telefonata. Allora, io vorrei citare uno scrittore meridionale che nel 1780... scriveva queste parole, parlo di Gaetano Filangeri. Quando in una nazione vi sono molti gran proprietari e pochi proprietari piccoli, bisogna che vi siano molti non proprietari. Cioè, per lui l'Italia del Sud era fatta di grandissimi latifondisti e da una plebe immane di persone che non avevano niente. Questo è quello che dice Filangeri nell'80 e lo dice sulla base di una considerazione che poi è propria della considerazione storico-economica, cioè che la proprietà terriera nell'Italia del Sud era una proprietà terriera neanche latifondista, ma proprietaria non residente. Cioè, mentre nel centro, nella Toscana, il nobile che aveva le terre, il latifondo, stava sulle terre, nel sud no. E dove stavano? Stavano nelle città. Non andavano mai nelle terre e quindi era terra di nessuno. Per quello che riguarda il sud avanzato industrialmente, economicamente, vorrei consigliare agli ascoltatori di leggersi le statistiche economiche redatte nel 1861, che vedevano qual era il reddito pro capite nel sud, la produzione nel sud, sulla base di quello che c'era nel 50, e si vede che c'è uno squilibrio interessante con il nord. Cioè, nel sud non esisteva un tessuto connettivo industriale, non esisteva, esistevano pochissime eccellenze, quella che ha citato prima. Quello che ha citato Pino Aprile esisteva. È un'eccellenza, come c'erano le seterie eccellenti, ma era una, mentre nel nord ce n'erano 100. E questo è un rapporto proporzionale fondante. Esistevano pochi apici, ma la diffusione era la povertà, l'analfabetismo. Melog 2.0. Io sono venuto qua perché c'è vista la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione perché ci avevano promesso la Repubblica. Invece hanno cagnato un re con un altro re. Ci hanno riempito la capa di ghiaccio. Perché si hanno rato? Tasse, carcere, fame. Ci hanno fatto più schiavi prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco, perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli, perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. A noi ci avevamo ribellato contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie, ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Noi combattiamo, vorrei 800 24 00 24. Stiamo toccando un tema che è trapelato da tanti interventi del nostro pubblico, a cui questa mattina diamo libera espressione, quella dell'Italia neoborbonica, dell'Italia nostalgica, dell'Italia che vede il risorgimento come quasi una forzatura, perlomeno un movimento che ha fortemente penalizzato quello che era lo spirito del meridione. Uno dei luoghi più infuocati di questa polemica, di questo dibattito, è la questione del brigantaggio, ciò che fecero i piemontesi rispetto ai briganti. Ci sono vicende spaventose, terrificanti, foto, immagini, racconti, teste tagliate, brigantesse uccise, torturate e anche private del loro stesso pudore. Ne parla Pino Aprile nel suo libro Terroni, e fra un po' lo sentiremo. Ma in particolare abbiamo sentito questo stralcio di un film, Li chiamarono briganti, che è un film del 99 diretto da Pasquale Squitieri. Come Squitieri ci ascolta tutte le mattine e spesso interviene, questa mattina l'abbiamo chiamato noi. Squitieri, buongiorno. Buongiorno. Perché ha fatto questo film Briganti, in cui rivendica le sevizie, gli orrori e il massacro che è stato fatto nei confronti dei briganti? Perché si è sentito così investito da questa necessaria rivisitazione storica? Mi dai il tempo di rispondere? Sì, nei limiti del tempo che ho a disposizione io, nella mia vita e in questa trasmissione. Partiamo da un dato storico preciso. La conquista del Sud, cioè una colonizzazione interna, fu fatta con l'esercito, cialdini, pallavicini, che massacrarono il sud. Ci sono paesi interi, tipo Ponte Landolfo, Casalduni, dove fu fucilata tutta la popolazione, uomini, donne, bambini, perfino gli animali. Il diritto di rappresaglia, quello che i nazisti hanno applicato nel nostro paese, era il diritto di cialdini, che per rappresaglia, in base a una legge fatta dal governo italiano, poteva sterminare tutte le famiglie dei briganti. Ora vogliamo parlare un po' seriamente, perché io questo discorso l'ho imparato da Gramsci sulla questione meridionale e non da libricini più o meno, oppure da Franco Molfese, che ha scritto la Bibbia del brigantaggio postunitario, oppure da Hobsbawm, che non parla di briganti, l'inglese Hobsbawm, parla di ribelli. Allora, il problema è questo qui: chi ha voluto l'unità d'Italia? Se noi andiamo a vedere tutto il carteggio fra Lord Palmerston, massone, primo ministro inglese, e Garibaldi, troviamo lettere in cui Palmerston dice a Garibaldi: Il denaro è al sud, la ricchezza è al sud, se non prendete il sud siete finiti, perché Cavour pensava che l'unità d'Italia finisse con la Toscana, non voleva rompere le scatole ai Borbone e non Borboni, voleva lasciarli in pace, anche perché era pericoloso mettersi contro il Regno di Spagna, ma la massoneria inglese che voleva conquistare il Vaticano, tant'è vero che Russell, ministro di Palmerston, dice che siccome il Vaticano protegge i briganti poi è un termine francese, loro si chiamavano i furibando, dice testualmente: un diritto chiaro e incontrovertibile di guerra del governo italiano contro il Papa. Quindi lei, Squitieri, abbraccia una tesi che è nota storicamente di una sorta di idea di poteri forti, sotterranei, di associazioni segrete massoniche. È lo scontro fra Napoleone III e il regno inglese e la massoneria. Quindi i poteri forti si sono spartiti quella parte d'Italia. Ma certo, i Savoy erano massoni e sono massoni. Cavour era massone, Mazzini era massone, Garibaldi aveva 11 logge. Se lei viene a Roma. Sì, ma lo stesso risorgimento, la stessa bandiera italiana, la bandiera tale quale presa. Però su questo. Sono simboli massonici. A Roma, al Pincio, c'è un monumento. Ma nessuno lo nega questo, però. Non mi sembra che sia stato mai negato da nessuno. Anita Garibaldi, è sotto scritto la massoneria. Allora, il problema appunto è questo qui, la ricchezza, come qualcuno ha detto susseguendo la trasmissione, era al sud. Noi avevamo un prodotto interno lordo che era di allora 1.100.000.000 rispetto ai 12 milioni dei Savoy, del governo Sabaudo. Noi avevamo tutto, avevamo le prime navi in ferro di Florio e Rubattino, noi avevamo la famiglia Florio che era 10 volte gli Agnelli, noi avevamo... Lei quando dice noi, Squitieri, dice noi in quanto si sente ancora fortemente radicato come... meridionale. Sì, ma come anche suddito borbonico, quindi... Per carità, i Borboni hanno tradito quelli che chiamiamo briganti, tutti li hanno traditi, li ha traditi la Chiesa che prima li ha finanziati e poi con le guarentigie li ha fatti catturare. Ma scusi un attimo, fermi un attimo, Squitieri, sentiamo Gennaro De Crescenzo del movimento neoborbonico, di questa terza lettura che ci sta facendo Squitieri rispetto a quella risorgimentale e quella borbonica, una lettura che poi ci si sente traditi da tutti, dagli stessi Borboni addirittura. Ma in realtà mi faccio dire questo, che poi chiarisce pure un po' il concetto. Noi è vero, accettiamo l'aggettivo nostalgici, ne siamo anche fieri, ma non vogliamo in alcun modo riportare un Borbone sul trono, non è questo l'obiettivo del movimento neoborbonico e dei neoborbonici. L'obiettivo è quello di ricostruire la verità e la storia, anche magari passando per storie dure come quelle che poi in fondo il Borbone non aiutarono veramente. Ma avete un Parlamento neoborbonico comunque? Noi abbiamo un gruppo di azione civico-culturale, così ci piace chiamarlo, che si chiama Parlamento delle Due Sicilie, e che cercherà di stimolare, di controllare, di osservare il più possibile quello che i nostri politici fanno e soprattutto quello che non fanno. Insomma, è un tentativo di incidere dal punto di vista civico e non solo dal punto di vista culturale, proprio perché non crediamo granché a queste nostre classi dirigenti. Il problema è tutto lì, abbiamo bisogno di classi dirigenti fiere, radicate, arrabbiate, che sappiano la storia, che riconoscono le proprie radici e vadano avanti. Mi faccio replicare solo una cosa al professor Pizzo. Quando parla di poche eccellenze delle industrie, io ho studiato appunto l'industria negli archivi piuttosto che sui libri, io lo invito a venire con me qualche mattina, sono qui all'archivio di Stato di Napoli, e a contare insieme a me le 5.000 fabbriche che potremmo vantare solo nel sud continentale. Facevamo lavatrici, profumi, tutte per palombari, pianoforti, tutte le produzioni possibili e immaginabili, con medie che sono l'esatto contrario di quello che lui ha detto. C'è uno studio del CNR, è uscito un paio d'anni fa, nel quale viene fuori quello che poi è la verità che ha detto Pasquale Squitieri. Il PIL nostro era esattamente quello del resto dell'Italia, non c'era nessuna differenza fino al 1861. Tutti questi primati positivi borbonici cambiano completamente in 10 anni. Una conquista, lui ha detto all'inizio fu quasi una guerra di conquista. No, purtroppo fu una guerra di conquista. Avevamo dei 668 milioni di lire sui banchi italiani, 443 erano i nostri, è uno dei primati più importanti, avevamo oltre 5.000 fabbriche, non c'era l'emigrazione dalle nostre parti, altrove già si partiva, non c'era nessun tipo di questione meridionale. Dopo 10 anni cambia completamente tutto, veniamo massacrati in tutto il sud, centinaia di migliaia di persone, la Chiesa Cattolica parla di 1 milione di morti, ha detto giustamente lei, che si trattava le decapitazioni come se fossero cose normali, ordinarie. Insomma, questo è il nostro Risorgimento. Io credo che i 280 musei del Risorgimento e garibaldini che esistono in Italia, piuttosto che valorizzarli, bisognerebbe dopo 150 anni magari restituire le chiavi e cercare di raccontare altre storie, quelle delle decapitazioni del nostro sud, quelle dei saccheggi della nostra banca. Marco Pizzo, visto che siamo in un tema che non tanto viene raccontato e celebrato e ricordato, sono nei film, se non ecco in rivendicazioni così forti, così passionali, su questa vicenda della repressione del brigantaggio o dei patrioti del sud, che traccia ce n'è realmente nei documenti, negli archivi e nei musei? Allora, il brigantaggio è sicuramente un evento doloroso nella storia del Risorgimento italiano. Non a caso il brigantaggio motivò una delle prime leggi speciali che vennero fatte dallo Stato unitario per combattere proprio il brigantaggio, perché c'era un comportamento che era speciale proprio per combattere queste sacche di ribellione. Ma il brigantaggio va anche qui, va inteso, perché ci sono due pesi e due misure diverse. Da una parte c'è il brigantaggio che era composto da sacche di esercito borbonico che in qualche maniera cercava una rivendicazione diversa, in collegamento anche con lo Stato Pontificio. Dall'altra c'era la renitenza alla leva. L'Unità d'Italia portò la leva obbligatoria e quindi, specialmente nel sud, dove l'attività era principalmente economico-agricola, era una cosa assai grave perché provocava il venir meno di manovalanza. Ma se noi vediamo le foto dei briganti, sono delle foto che sembra di stare adesso alla guerra in Iran, in Iraq, teste mozzate, cadaveri ricomposti, fotografie di più briganti mostrati morti. Sì, esposti, legati sulle scale come maiali squartati, sì. Prima si ricordava il meraviglioso saggio di Molfese sul brigantaggio, ma lì c'è anche la controparte, quello che i briganti facevano ai soldati sabaudi, che li sventravano, portavano le budella in giro per i paesi, cioè era una guerra senza quartiere, ma erano due concezioni diverse, due stati diversi che si confrontavano. Ne parla Pino Aprile nel suo libro, cito alcuni episodi, a Isernia le donne in una sorta di sabbia virarono e impiccarono i cadaveri dei garibaldini sconfitti della filo borbonica legione matese, pure Nicola Lillo, la moglie del fuoriuscito Nicola Lillo, che intrise il pane nel sangue di un compaesano, il garibaldino che lo aveva ucciso, si mangiò il pane pieno di sangue. Quindi sono degli episodi che appartengono a un gran ghignol della nostra storia patria, ma sono noti, sono occultati, come sembra di capire da molte le persone che hanno parlato. Allora, bisogna anche qui fare una buona tara, cioè c'è un culto del sangue nel Risorgimento, per cui tutti gli eventi diventano qualche cosa di mistico, è la mistica del sangue. Ma ci sono chiaramente delle ribellioni popolari che tolgono, o meglio, fanno fuoriuscire una certa cultura anche folclorica, tribale, ma che è presente nel nord come nel sud, è quella che poi De Martino negli anni 30, 40, eccetera, sarà la Taranta, per esempio. La cultura è sempre quella, il pianto rituale, è quella una accezione culturale, ma da qui a dire che il Risorgimento è stato un complotto massonico, anticattolico, ce ne passa. La loro parte l'hanno avuta comunque, sicuramente, anche i massoni, anche le senz'altro. Ma l'hanno avuta i massoni, come l'hanno avuto i cattolici, l'hanno avuto i cristiani, l'hanno avuta tante componenti della società, e i massoni erano una delle componenti della società. Ma questa lettura che si dà, e in questo devo dire, in questi giorni c'è anche un dibattito assai caldo sulle linee, sulle righe di un quotidiano cattolico, Avvenire, che vede proprio il rapporto tra cattolicesimo e Risorgimento, con interventi anche, secondo me, delle volte interessanti da una parte e dall'altra. Va quindi tutto quanto letto e interpretato. Melog 2.0. Il 26 ottobre 1860, e dunque incontro a questo re che si reca a Garibaldi per consegnargli un regno che ha appena conquistato con i suoi garibaldini. In realtà l'incontro non avvenne proprio a Teano, ma nelle sue vicinanze a Taverna Catena, vicino a Caserta. Di questa scena esistono celebri dipinti dove i due si salutano solennemente in sella ai loro cavalli. Forse la realtà fu meno maestosa, perché pare che Garibaldi, per via dell'umidità e dei suoi reumatismi, si fosse annodato sulla testa il fazzoletto che di solito teneva al collo e, togliendosi il cappello per salutare il re, apparve in questa acconciatura poco protocollare da massaia. Il mitologico incontro ateano raccontato da Piero Angela. Stamattina stiamo cercando di ragionare assieme un po' su questa rivendicazione tardiva, lontana, storicamente diluita nel tempo, sulla efficacia, sulla necessità, sui valori del Risorgimento. Chi parla faceva la prima elementare nel 1960, ricordo ancora che per noi la storia era il Risorgimento, il bricolage scolastico era fare le bandierine d'Italia e sentire le storie di Garibaldi e di Garibaldini. I miei figli penso nemmeno abbiano studiato le scuole elementari o medie qualcosa che riguardi il Risorgimento, quindi la percezione generale è cambiata. Comunque fra un anno ci sarà una importante ricordo, e già se ne discute su questo Risorgimento. Fra gli ospiti che abbiamo sentito c'è Pino Aprile, che ho un po' tenuto silenzioso, che ha scritto, ricordo, il libro Terroni, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, edizioni PM. Pino Aprile, non trovi che anche parlare di una vicenda così lontana alla fine riporti alla luce le stesse contraddizioni, la stessa impossibilità di conciliazione degli opposti che oggi si riverbera in tante vicende della politica contemporanea, della lettura contemporanea, dei mali, dei beni, delle occasioni perdute del nostro paese? Ma senz'altro è quello che accade ogni volta che si vuol tacere per convenienza, qualunque sia la convenienza, la verità. La memoria è un fiume carsico e la memoria comunque riappare anche dopo 150 anni, perché il bisogno di mettere a posto i sentimenti e i fatti nella memoria è un bisogno insopprimibile, per cui noi non ci libereremo mai di questo fino a che non avremo la forza, il coraggio e l'onestà, italiani tutti, di affrontare quel mostro che è nel nostro passato. Un esempio, sulle atrocità, i piemontesi, i briganti eccetera eccetera, si dice le fecero tutti, è vero, ma non è eticamente allo stesso livello. Mi rifugio in Machiavelli, che per spiegare un fatto del genere dice: no, le hanno fatte entrambi, si riferiva ovviamente ad altre atrocità, ma con diverso valore, volendo quelli opprimere e quegli altri non essere oppressi. Cioè, se io faccio il feroce a Baghdad mentre vengo invaso, io nel bene e nel male, capendo bene o capendo male, ma sto difendendo il mio paese, è diverso. Così come l'idea del sud feudale e povero è sbagliata, ma è sbagliata scientificamente, storicamente, è dimostrato. C'è uno studio del CNR di Napoli che è stato appena citato, che è stato diretto dal pisano economista e storico professor Malanima con il professor Daniele dell'Università di... Cosa dimostra questo studio? Loro hanno preso i dati di produzione regione per regione di tutta Italia dal 1861 a oggi. Da questo viene fuori che il sud non era più povero del nord. Su questo... Persino... Sì, era in vantaggio. Pino Aprile, su queste potremmo continuare ore, perché Pizzo ha citato studi altrettanto comprovati che dicono il contrario, quindi se ci fermiamo nell'analisi delle... Io quello che mi piaceva più era valutare il fatto emotivo, che come dici giustamente te, ci sono delle vicende profonde che finché non avranno una totale lettura sotto tutta l'angolatura storica sarà difficile toglierle da questa sorta di peso emotivo. Ma però devo dire che onestamente ancora questa ambiguità di lettura c'è rispetto a vicende anche molto vicine a noi, anche quasi recentissime, quindi trovo ci sarà una grande difficoltà, ma la buona intenzione naturalmente è quella di andare avanti nel nostro desiderio, nella nostra curiosità. Sentiamo velocemente Enrico, allora, in conclusione, visto che stiamo per finire. Buongiorno, io sono un cittadino romano, sono nato a Roma e sono figlio di emigrati meridionali. Io ho studiato da ragazzo e leggevo il Risorgimento, i grandi eroi, i grandi padri della patria. Dopodiché sono andato un po' a documentarmi, perché mi pareva una cosa stranissima che mille persone scendono giù senza dichiarazione di guerra, attaccano una nazione con un esercito di più. Lei però adesso non mi ha portato una testimonianza, mi riparla ancora di documenti. Potrebbe Pizzo dirle che erano 1000, ma poi diventarono 5000 nel giro di pochissimo tempo. Quindi, se ci fermiamo alle letture, al bricolage culturale, alla approssimazione documentale, non era questa la strada. Comunque, ci abbiamo provato, è stato un tentativo. Non potranno mai dire neoborbonici che non hanno avuto modo di esprimersi nella nostra trasmissione, come già spesso eravamo stati accusati. Quindi questa mattina si è comunque parlato di un problema che è ancora caldo, anche se è collocato in momenti storici che sembravano lontani anche dalla nostra esperienza personale. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.